as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, questa puntata chiaramente la dedichiamo alla manifestazione che si è svolta sabato, la manifestazione No Kings, No CPR, per il no al referendum contro il governo Meloni, che si è svolta a Bologna. C'è stata la settimana prima un'assemblea a Bologna, in cui io non ho partecipato, in cui sono decise insomma cosa fare. C'era questa manifestazione che era stata indetta inizialmente per contro il CPR di Bologna, poi alla fine purtroppo gli eventi hanno travolto. C'è la questione del referendum, c'è la questione della guerra. C'è una guerra che veramente ha, ne parleremo dopo, siamo a dei livelli veramente incredibili. Siamo tornati veramente alla guerra in cui i re si alzano la mattina e decidono di invadere uno stato, così, senza problemi, perché per tanti motivi siamo tornati veramente alla barbarie, ma in realtà lo siamo sempre stati, e ne parleremo poi nelle conclusioni, perché insomma non dobbiamo essere degli ipocriti, dobbiamo dare il giusto peso a quello che sta accadendo. Adesso un pezzo musicale, poi ci sentiremo alle interviste. Abbiamo intervistato Alice, la nostra anestesista dei sanitari per Gaza. Voglio dire innanzitutto che lì erano presenti anche i medici di Ravenna denunciati, questa manifestazione, erano ben visibili. Poi abbiamo intervistato i compagni della FIOM. La FIOM era in piazza, voglio ricordare, sabato, ma era in piazza anche, dobbiamo dirlo, l'8 marzo, la CGIL. E mi dispiace per quello che è successo davanti alla Camera del Lavoro. Io ero lì, non me ne sono accorto di niente, e devo dire che è veramente scandaloso. Poi ne faremo una puntata, ne parleremo di quello che è successo, perché l'8 marzo è stata una grande manifestazione, secondo me rovinata da proprio, secondo me, la stupidità. Ecco, si può solo parlare di stupidità. Lenin ci ha scritto un libro, Estremismo, malattia infantile della rivoluzione, no? E qui qua non si può nemmeno parlare di estremismo, parliamo solo di stupidità, ecco. Erano in piazza l'8 marzo i compagni di Genova, noi li abbiamo intervistati, dunque noi siamo la prova vivente del fatto che abbiamo intervistato, ce n'erano tante, soprattutto del commercio, no? La maggior parte delle lavoratrici erano della CGIL in piazza l'8 marzo, ed è stata incredibile, non so che testa avevano quelle che hanno fatto quella cosa simbolica, quella goliardata, no? Vabbè. Comunque, le compagnie della FIOM c'erano anche in piazza, perché fanno parte di questo movimento No Kings. Il 28 marzo saremo anche a Roma. E poi abbiamo intervistato una compagna che per me è fantastica, Elisa De Carc, uno spontaneismo rivoluzionario di quelli proprio belli, in cui ci parlerà anche del suo punto di vista, che è interessante. Ecco, un pezzo musicale e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Fuga dai catrazzi. uccide te e tutto ciò che è intorno, dall'uomo che non è padrone del suo giorno, da tutti quelli che inquinano il mio campo. Io mi libererò perché ora sono stanco. Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Ciao a tutte e a tutti. Io la nostra anestesista preferita, la compagna anestesista. Ci siete anche voi, voi medici per Gaza. Sì, ci siamo perché noi in quanto operatori sanitari sappiamo benissimo cosa vuol dire diritto alla cura e quando questo rischia di essere lesionato. Attualmente in più parti del mondo si stanno bombardando civili, si stanno bombardando ospedali, si stanno prendendo di mira il personale sanitario, distruggendo il sistema sanitario. D'altro canto in Italia stessa abbiamo visto ultimamente con i casi di Ravenna una gravissima delegittimazione della nostra professionalità e anche del nostro lavoro. Noi siamo sempre stati per il diritto. Cosa è successo a Ravenna? A Ravenna dei colleghi e delle colleghe, infettivologi e infettivologhe, sono stati indagati per presunti certificati falsi sui migranti. Questa è una ingerenza gravissima nel lavoro di un medico che tutti i giorni opera con una forte deontologia e con l'obiettivo di cura. È stato un fatto di una gravità inaudita e noi oggi in piazza siamo anche per questo. Certo. E anche per ricordare che il decreto sicurezza è solo una parte della misura repressiva che sta attuando questo governo in questo momento. Noi scendiamo e scenderemo sempre in piazza per mantenere uno Stato democratico, per mantenere il diritto di cura accessibile a tutte e a tutti. Certo, oggi prima manifestazione No Kings, sì? Contro la guerra, contro questi re che fanno la guerra, non si curano nemmeno ormai di giustificarla, no, sta guerra. Una volta erano guerre umanitarie, io mi ricordo quando ero ragazzo, ci dicevano facciamo la guerra per motivi umanitari. Oggi i re non dicono più questo. No, oggi lo dichiarano. Dichiarano apertamente che vogliono fare la guerra per la conquista di un popolo o per motivi fondamentalmente capitalisti. Tra l'altro andando assolutamente contro il diritto internazionale. Noi rimanere indifferenti rispetto a una situazione del genere, rispetto a un re, a un sovrano che una mattina si sveglia e decide di bombardare un paese ridefinendo quella che è poi veramente il diritto internazionale, lesionando quella che è l'autodeterminazione di un popolo, anche questo è un fatto di gravità inaudita. E che sta all'interno di un contesto politico mondiale che ci mette particolarmente in allarme. Ok, grazie Alice, siamo con voi. Grazie. Adesso faccio una bella foto così, in posto. grazie a voi, grazie. Ciao, ciao. Allora, siamo qui, manifestazione No Kings e c'è anche la FIOM. Non c'ho solamente io, c'è anche la FIOM, sono tutti grandi, diversi compagni della FIOM e c'è anche qua Giacomo. C'è la FIOM, ha aderito alla nostra struttura, sono in piazza anche i nostri delegati iscritti per dire no alle politiche di questo governo e in generale a questa fase in cui vediamo tanti autoritarismi imporci repressione, povertà e guerra. Dimmi, noi come metalmeccanici che contributo possiamo dare? Noi possiamo portare il contributo delle lotte per il salario, contro il caro vita, per la redistribuzione in un sistema economico dove la ricchezza è sempre più accentrata nelle mani di pochi, appunto il re del nostro tempo. E noi possiamo portare il nostro contributo anche con il nostro impegno contro la guerra, contro il decreto sicurezza. Abbiamo messo in pratica forme di lotta disobbedendo alle politiche di questo governo e cerchiamo anche di lottare affinché a livello transnazionale ci sia una ribellione dei lavoratori contro l'economia di guerra, fino anche ad azioni europee di mobilitazione. E dunque stiamo andando verso uno sciopero contro la guerra e contro i Kings. Noi stiamo cercando di costruire uno sciopero a livello europeo con tutti i sindacati principali dell'industria affinché si dica no alla guerra, non solo no al piano di riarmo che tutti i governi europei stanno portando avanti, ma no a un modello economico che ci porterà alla guerra necessariamente. Ci stiamo lavorando. Ma non pensi dovremmo cominciare anche qui dall'Italia, noi come FIOM, a fare qualcosa, vista la situazione drammatica, perché poi alla fine questa guerra porterà a un peggioramento delle condizioni materiali dei lavoratori e non solo metalmeccanici. Sicuramente ora che abbiamo rinnovato il contratto dei metalmeccanici, il primo obiettivo è la lotta contro questo modello economico. Lo stiamo già facendo appunto dal 28 marzo, dal corteo nazionale a Roma, a partire dalle mobilitazioni sulle vertenze aziendali che cerchiamo di rendere simboli di una più grande crisi del nostro tempo. Passo dopo passo dobbiamo allargare la mobilitazione, questo è il nostro primo pensiero, con l'intersezione di lotte diverse nelle stesse piazze come avviene oggi, ma anche allargando la partecipazione dei metalmeccanici ai movimenti più larghi. Ok, grazie. Per questo siamo qua. Per questo siamo qua, saremo in piazza il 28 e invitiamo tutte e tutti a partecipare e a seguirci anche nelle mobilitazioni che verranno dopo il 28 marzo. Grazie mille, Giacomo. Grazie a voi. Bravo. Eccola qua. Ciao, sono Elisa del Partito dei CARC di Bologna. Ciao Elisa. E oggi siamo qua alla manifestazione contro il governo Meloni in tutti i modi possibili, perché pensiamo sia necessario scendere in piazza per tutte le mobilitazioni che oggi si pongono appunto contro questo governo che ci trascina nella terza guerra mondiale, che appunto ha preso una svolta repressiva proprio per criminalizzare tutto il movimento di lotta in solidarietà alla Palestina, ma non solo, contro la guerra, l'economia di guerra e lo smantellamento dell'apparato produttivo. Ma siamo qua in piazza anche a portare delle parole d'ordine che noi pensiamo servano in questo corteo, che sono appunto parole d'ordine contro la NATO, contro questa amministrazione, perché pensiamo che il PD non sia l'alternativa al governo Meloni, perché l'Epore ha già dimostrato, come abbiamo visto al Pilastro solo pochi giorni fa, che è un governo di un diverso colore ma che usa gli stessi manganelli, le stesse politiche repressive, le stesse politiche di asservimento del nostro paese agli imperialisti USA, alla NATO, all'Unione Europea e ai sionisti. E infatti anche qua a Bologna noi abbiamo un'infrastruttura militare della NATO, che è l'oleodotto della NATO NIPS a Borgo Panigale. E quindi siamo qua anche per denunciare questa presenza, su cui ovviamente l'amministrazione non si pronuncia. Siamo qua per parlare con i lavoratori, dato che l'oleodotto passa anche sotto diversi stabilimenti, e per invitare al 4 aprile, quando faremo una tenda contro la guerra proprio a Borgo Panigale sul passaggio dell'oleodotto, perché appunto il 4 aprile è la giornata di fondazione della NATO, che noi vogliamo trasformare in una giornata nazionale di lotta contro la NATO per liberare il nostro paese dall'occupante straniero, da chi ci trascina in guerra, quindi anche chi ci governa al servizio di questi criminali. Senti Elisa, tu sei una lavoratrice, no? Sì. Oggi noi come lavoratori questa guerra ci sta massacrando. Secondo te cosa dovremmo fare come lavoratori? Quale sarebbe una soluzione, cioè, per combattere? Qua oggi siamo contro i re ci stanno mandando in guerra, come ho detto anche con altri, senza nemmeno trovare giustificazioni. Loro hanno bisogno di petrolio, hanno bisogno di comandare, di sottomettere, e fanno le guerre, e noi lavoratori poi ne paghiamo le conseguenze, loro non interessa. Cosa dovremmo fare come lavoratori? Io penso che i lavoratori hanno già dimostrato di essere in grado di fermare la terza guerra mondiale. L'abbiamo visto con le mobilitazioni dell'autunno, il ruolo di organismi come il CALP di Genova, ma anche gli altri portuali di tutta Italia, il ruolo che hanno assunto collettivi di lavoratori e lavoratrici come i sanitari per Gaza, i docenti per la Palestina. Prima abbiamo intervistato i sanitari per Gaza. Ottimo. E quindi noi pensiamo, ma anche il ruolo che ha assunto per esempio il collettivo di fabbrica GKN contro lo smantellamento produttivo nel nostro paese. Lui deve bloccare, ecco, tutto. Tutte queste esperienze dimostrano che solo i lavoratori organizzati possono bloccare la terza guerra mondiale, bloccare tutto e appunto organizzarsi, quindi in ogni stabilimento, in ogni scuola, in ogni ospedale, per fermare la guerra, perché solo i lavoratori possono farlo. Grazie Elisa, sono d'accordo con te. Grazie a te. Ciao. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, oh, yeah. Tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un video de mi en las montañas, un rubí cinco fragas. Tú que dices que mi patria no es tan linda, oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo, una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña, un fidel que vive en las montañas, un rubí cinco fragas y un que vive en las montañas, un rubí, cinco fragas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, ahora que es libre la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba, ahora sí Yankee la quiero más. A defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Allora, siamo qui a Il Paese Rose, oggi puntata dedicata alla manifestazione di sabato, no CPR, no Kings, contro la guerra, contro il governo Meloni, soprattutto per il no al referendum. Ora, abbiamo ascoltato, abbiamo detto, Alice, Giacomo, Elisa, io lo voglio dire, Questa volta queste guerre che stanno devastando il mondo, che stanno creando delle grosse crisi economiche, che siamo solamente all'inizio, no? Se questa guerra non verrà fermata il prima possibile, veramente il capitalismo prenderà una botta questa volta che se la ricorda per decenni e decenni. Questi re che decidono di fare la guerra così, improvvisamente, c'è chi dice per distrarre l'opinione pubblica per il fatto che ci sono dei file in cui accusano Trump di essere un pedofilo, o forse è ricattato da Israele, oppure perché ci sono degli interessi economici, come sempre, legati al petrolio, al fatto che hanno attaccato il Venezuela, come qualche intellettuale di sinistra ha detto, è giusto una delle poche cose che hanno ragione, nel senso che ogni volta che attacca l'America, casualmente deve portare la democrazia, la porta sempre in un posto in cui c'è il petrolio. È una cosa, una coincidenza. Questo è vero, ma questa volta una delle cose che ho detto anche nell'intervista, che avete se avete sentito, è che Trump è talmente onesto che veramente non ha nemmeno tirato fuori la questione della guerra umanitaria. Vi ricordate nel passato, dovevano falsificare le armi, si dovevano far cadere anche i grattacieli, dovevano, no? Per il joint to the flag, come dicono gli americani, per stringersi intorno alla bandiera, spesso ai tempi del Maine a Cuba e anche dopo a Pearl Harbor hanno dovuto sempre far creare delle catastrofi, oppure delle catastrofi umanitarie, oppure le armi chimiche. Beh, adesso c'è la questione dello spauracchio dell'arma atomica, è vero, però fondamentalmente Trump è stato onesto, cioè noi andiamo lì perché ci interessa l'Iran, sì, poi sì, c'è la scusa che sembra, ma è palese il fatto che non esiste nessuna guerra umanitaria, non esistono bombe umanitarie, vogliono bombardare, punto e basta. Ecco perché Trump è un re che non ha bisogno nemmeno di giustificarsi, non ha bisogno nemmeno del voto del congresso, così come per il Venezuela lui attacca, punto e basta, senza preoccuparsi della democrazia. Ecco perché no kings. Però vogliamo dire, bisogna essere onesti, in passato le motivazioni erano sempre le stesse, in passato le logiche erano sempre le stesse, sì, prendevano in giro l'umanità, ma io, come tanti compagni, non ci abbiamo mai creduto a quelle stronzate che ci raccontavano. Forse qualcuno può averci creduto, non lo so, però chiaramente chi era prima di Trump ha fatto delle guerre sulla stessa logica, ha violato il diritto internazionale. Oggi si parla tanto di questo diritto internazionale, ma io un po' di anni ce li ho e mi ricordo quando, io mi ricordo che in ogni guerra si diceva stanno violando il diritto internazionale, in ogni guerra si diceva, ma guardate questa qua l'ha presa in giro, cioè quando quello fece vedere la polverina bianca, una persona sana di mente, chiaramente tutte le persone che avevano un minimo di coscienza politica sapevano che era una presa in giro, sapevano benissimo che non c'erano le armi chimiche in Iraq, sapevano benissimo che era tutta una scusa, sapevano benissimo che Al-Qaeda, i talebani erano tutti al soldo della CIA. Oggi vengono fuori, no? Ma forse, cioè, sono anni che l'ISIS non attacca Israele, ci sarà una motivazione, no? Questo io non voglio fare il complottista, però è chiaro che questa non è la prima né l'ultima, è una delle tante guerre purtroppo che si combattono nel nome dell'imperialismo. Questa è la parola vera, parola importante che sta portando le guerre in tutto il mondo, è l'imperialismo. E gli imperi si fanno le guerre. E poi c'è chi fa più guerre, chi fa meno guerre, le fa diversamente, fa guerre economiche, ma gli imperi si combattono. E purtroppo la povera gente, i cittadini e i lavoratori ci vanno in mezzo. Ecco perché dobbiamo combattere questo impero, questo imperialismo che si nutre di capitalismo. Bisogna combattere il capitalismo che nutre l'imperialismo. Questo dovremmo fare. Spero che si faccia il prima possibile uno sciopero generale contro la guerra, e sia europeo, ma dobbiamo partire anche dall'Italia. Io non voglio aspettare che l'Europa si muova, che si muovano i tedeschi, i francesi, gli spagnoli. Dobbiamo iniziare da noi qui a scioperare, perché noi lavoratori abbiamo il dovere di fermare questa guerra e il dovere di fermarci, perché vogliamo che questa guerra si fermi. Ecco. Vi saluto alla prossima puntata, sperando in qualcosa di bello, che finisca questa guerra, ad esempio. portiamo i portavalli, noi a casa all'interesse militare dei lavoratori.